noi, anzi loro, io gli porto solo il caffè, avete visto il termos in mano, io gli porto solo il caffè, loro si mettono davanti al palazzo e controllano che non arrivino gli operai del gestore telefonico, gli operai che devono portare il materiale per lavorare e installare l'antenna. Un'antenna che qualcuno vuole piazzare sul terrazzo del palazzo qua di fronte, e qua, oltre alle abitazioni, ci sono scuole, c'è una chiesa, un oratorio, e vogliono metterci un'antenna. In più si tratta di un'antenna enorme, alta, si parla di quasi 10 metri di antenna. Voi direte, ma perché è grande, rovina il paesaggio? No, non è tanto quello, cioè è pure quello, eh. Il problema principale sono le onde. Voi direte, ma perché? C'è il mare vicino e se le onde si fanno più alte l'antenna rischia di bagnarsi. No, no, no, che c'entra? Le onde che dico io non sono quelle del mare. Quelle sono belle a vedersi. Le onde che dico io non si vedono. Magari si vedessero. Se si vedessero allora si capirebbero tante cose e noi non staremmo qui a fare presidi o picchetti o come li vuoi chiamare e loro non starebbero qui a perdere il sonno tutte le notti. Senza dire che io non starei qui a portargli il caffè ogni mattina. Non che la cosa mi scocci, eh. Io ho un bar dall'altra parte della città e la mattina, prima di uscire di casa, fare qualche caffè in più per i miei amici non mi costa niente. La notte io l'ho fatta una volta sola. Poi ho subito dovuto rinunciare. Per aprire il bar mi sveglio sempre prima dell'alba e la sera alle 9 per la stanchezza già sto a letto stecchito. Così mi sono dovuto accontentare di questo ruolo che sembra marginale, però I miei amici mi prendono in giro, mi chiamano Natalina. È la vecchietta che negli spot di un po' di anni fa portava sempre il caffè a Nino Manfredi. Buon'anima. Ah, due parole sul picchietto. Ogni presidio, quando si fa, si organizza nei minimi particolari e deve funzionare tutto il santo giorno, anche di notte, eh? 24 ore su 24, è quello che oggi si chiamerebbe picchetto all day. Perciò bisogna immaginare quanti di noi, quanti di loro, fanno i turni dentro questa tenda che si trova proprio vicino, all'ingresso del palazzo, perché gli operai possono arrivare quando uno meno se l'aspetta, capito? In piena notte o all'alba. Mi raccontavano di episodi incredibili, di operai che sono riusciti ad entrare nel palazzo nonostante il presidio il giorno di Ferragosto, quando quasi tutti sono al mare, oppure la notte di Capodanno, quando tutti sono distratti a festeggiare. Ah, ecco. Queste che vedete sono le tabelle dove sono annotati i nomi di quelli che fino a oggi fanno i turni, le notti, i presenti, ogni cosa. Pensate, da febbraio in poi, a febbraio fa freddo, l'umidità ti entra dentro. La mattina dopo, poi, vai a lavorare col freddo nelle ossa. Oppure, chi non va a lavorare perché è pensionato, se ne torna a casa, sì, ma sempre col freddo nelle ossa, eh. Perché il freddo nelle ossa non è che non ti entra dentro se hai superato i 60 anni, no. No, il freddo ti entra comunque, anzi. Sì, qualche stufetta per la notte c'è, ma a che serve? Poi col freddo di quest'anno, meno male che possono sempre contare sul calore del mio caffè. Ecco, a febbraio c'erano solo due persone a notte, il minimo. Ah, perché il presidio si fa in qualsiasi momento dell'anno e mica c'è una stagione dei presidi. Qualcuno vuole piazzare un'antenna nel bel mezzo di un centro abitato? Picchetto. Estate, inverno, pioggia, vento? Picchetto. I miei amici hanno iniziato ai primi di febbraio e l'inverno, così dicevano le previsioni, sarebbe durato poco. Poi però, verso metà aprile, i miei amici hanno iniziato a domandarsi il significato che alcuni danno alla parola poco. Un freddo, non finiva mai. Comunque ora tutti sono d'accordo, eh. Negli ultimi anni non c'è mai stato un inverno così lungo e pieno di sbalzi di temperatura. A temperatura che finalmente a maggio è salita, così come sono aumentati i presenti ai turni di notte. 3, 4, 6. A giugno c'era il pienone. Una decina di persone fino alle 2 di notte era la regola. Anche perché nella tenda, nel gazebo, non manca niente. Sembra tutto rimediato, È tutto rimediato. Ognuno ha portato qualcosa, ma c'è veramente il necessario, eh? Acqua, vino per tutti, poi Coca-Cola e aranciata per i bambini che passano a salutarci. Ah, qua dietro c'è pure un piccolo frigorifero e poi giornali, riviste varie e una cassa dove ogni mese ciascuno di noi mette 5 euro per le spese. Ah, a proposito, oggi inizia il mese, le metto anch'io. Spesso le signore dei palazzi vicini scendono e ci portano da mangiare certi piatti. pasta e fagioli, lasagne, dolci e torte d'ogni tipo. Poi fanno i confronti. Rosa, assaggia un po', l'ho fatto io. Marie, e te pia questa, oggi mi è venuta proprio bene. Poi, il sabato sera, l'appuntamento fisso è con la grigliata del quartiere. Per tutta la strada un odore di bistecche, salsicce, pollo. E allora si parla delle novità, se ci sono. I più anziani ci raccontano di come era la zona anni prima. Senti, senti, senti a me. Durante la guerra giù in fondo c'è stava un deposito delle armi. L'anni dopo, finita la guerra, i bambini ci andavano a giocare. Ma ogni tanto qualcuno incappava in qualche munizione abbandonata e pensando che era un giocattolo ci ha pure rimesso le penne, capito? E perché? Perché non ce lo sai del fatto che tanti anni fa, qua dietro c'è stava un convento degli preti. Poi dopo un po' però sono arrivate le suore. Li preti, che non si sa per quale motivo non ci andavano d'accordo, sono voluti subito andare via. Oh, nella zona sono girate certe voci su sti preti, Poi c'è un vecchietto che racconta spesso di quando era giovane e qui le colline erano verdi, con pochissime case. Tutti lo ascoltano sempre in religioso silenzio e annuiscono. Il problema però è che quello è vecchietto, farfuglia, racconta preso dall'enfasi della cosa, la dentiera che gli balla, non si capisce mai niente. Dopo un'ora e mezzo di racconto, ogni volta appena se ne va, tutti quelli che prima annuivano si guardano fra loro in modo molto, dico molto interrogativo, come per dire: ma che ha detto? Tempo fa, poi, c'era una coppia di signori che vedevo spesso la mattina e alla quale portavo il mio caffè. Lui era un omone alto, grosso. Lei invece era piccola, stava sempre seduta, non si alzava mai. Erano marito e moglie e ogni volta mi raccontavano un pezzo della loro vita. Si erano conosciuti in questo quartiere alle elementari, poi erano cresciuti, si erano sposati, avevano avuto figli, nipoti e ora, invece di godersi la vecchiaia, se ne stavano sotto la tenda a fare il presidio. Dicevano che per loro stare qui a contatto con gli amici era importante. Per un certo periodo poi non li vidi più. Una settimana fa, sotto la tenda, ho incontrato di nuovo lui. Stavolta però era solo. Ha detto che sua moglie era venuta a mancare proprio pochi giorni prima. Il dolore alla gamba le si era riacutizzato con le notti del presidio al freddo. Ho pensato, ecco perché non si alzava mai lei. E lui, su invito dei suoi amici, ora aveva ricominciato a fare le notti. Dice che gli fa bene stare con loro, lo consolano. E comunque passa il tempo. Insomma, si passa il tempo sotto la tenda, anche perché sul tavolo non manca mai un mazzo di carte. So di certe partite, briscola, scopa, alcuni hanno iniziato a fare pure le scommesse. La tenda certe volte pare una bisca. Se in quel momento passa la polizia, vagliela a spiegare poi la storia del presidio. Ah, e naturalmente chi passa di qui può informarsi con diverse rassegne stampa sempre aggiornate, cioè quella relativa alle proteste negli altri quartieri della città, a Trionfale, alla Montagnola, al Torrino, al Trullo, c'è quella che riguarda le proteste nelle varie città italiane, Torino, Ancona, Firenze, Messina, Padova, Milano, Palermo, c'è quella che tratta dei problemi dell'elettrosmog in generale. E quella poi riguardante i risultati scientifici che confermano la pericolosità di un ripetitore vicino alle scuole, agli asili nido, alle abitazioni. Ah, e poi c'è una rassegna stampa dedicata solo a noi, perché si parla di noi, Il giornale del municipio ci ha dedicato un articolo intero. Dov'è? Aspetta, eccolo qua. guarda che bella foto. So pure che una domenica il prete della chiesa qui accanto, durante l'omelia, ha invitato tutti i fedeli a darci una mano. E poi è pieno di cartelli, senti qua, leggi questo. È sempre attiva la postazione permanente per impedire l'installazione dell'antenna. Dal 9 febbraio organizziamo turni di 4 ore. Contribuisci con la tua disponibilità. Ah, e poi c'è quest'altro. Non siamo contro i telefonini e il progresso. Sappiamo che sono utili per tutti, ma non vogliamo che l'antenna venga installata tra le nostre abitazioni, la scuola elementare e l'oratorio. Ah, e poi c'è quest'ultimo, questo è bello. A tutti i cittadini, visto lo stato psicologico grave dell'amministratore del palazzo di qua di fronte che vuole installare l'antenna, quando lo incontrate siate carini con lui, fategli un gesto affettuoso, sputategli in faccia. L'antenna che vogliono installare sul palazzo di fronte è una di quelle antenne che si vedono sopra alcuni palazzi del quartiere, sopra alcuni palazzi della zona, sopra molti palazzi di Roma. L'antenna che vogliono montare sul palazzo di fronte è una di quelle antenne che si vedono spesso sui palazzi di tutta Italia. E non solo sui palazzi, ma anche in posti impensabili, spesso quasi invisibili. Le onde che emettono, quelle sì, sono proprio invisibili. E il risultato è una quantità sempre maggiore di onde elettromagnetiche nell'aria. Onde che apparentemente non danno alcun problema. Apparentemente. Roma è la capitale d'Italia, ma è anche la capitale d'Europa per numero di antenne. Ormai sono più di 3.000 le antenne a Roma, una ogni 1.000 abitanti. E si possono vedere tutte e 3.000 queste protuberanze elettromagnetiche. Basta alzare gli occhi, basta aprire gli occhi, basta guardarsi un po' intorno. Ah, senza dire che centinaia sono quelle in arrivo con le nuove tecnologie, ancora molto più potenti e dannose alla salute, come ad esempio WiMAX. L'Italia è terza in Europa per numero di telefonini, 122 ogni 100 abitanti. Il 50% dei bambini tra i 7 e gli 11 anni possiede un telefonino. La città di Manchester, in Gran Bretagna, ha messo a punto una rete in grado di garantire internet senza fili gratis a più di 2 milioni di persone. La stessa cosa tenta di fare Milano, con internet senza fili accessibile in circa 4.000 luoghi all'aperto. E la stessa cosa tenta di fare Roma, internet senza fili nei parchi, ma anche nei pub, e ora pure nelle scuole, nelle biblioteche, negli ospedali. Ma qual è il prezzo da pagare per tutta questa libertà? Stiamo parlando di internet senza fili, ovvero il wifi. Oppure il wireless. Stiamo parlando dei telefoni cellulari, stiamo parlando dei telefoni di casa senza fili, ovvero il cordless. Stiamo parlando in genere del collegamento senza fili come quello fra computer, quello fra telefonini, ovvero il Bluetooth. Stiamo parlando infine pure degli impianti radioelettrici, ovvero le antenne per trasmissioni televisive e radiofoniche. In tutti questi casi, anche se le lunghezze d'onda utilizzate sono leggermente diverse, il tipo di radiazione emessa dai vari apparecchi è molto simile. La domanda è: come mai a Cesano, poco fuori Roma, sono aumentati in modo impressionante i casi di leucemia infantile? E come mai quando stiamo 20 minuti col cellulare attaccato all'orecchio, poi tutta questa parte risulta calda o ci fa male la testa? Per capire esattamente che cosa succede con le onde elettromagnetiche, ho qua una breve intervista al professor Angelo Levis dell'Università di Padova. Proprio ieri la leggevo qua con alcuni amici. Professor Levis, ci può spiegare in che modo le radiofrequenze interagiscono col nostro organismo? In ognuno di noi, in ogni corpo umano, una serie di circuiti elettrici, di campi elettromagnetici, sovraintende a tutte le funzioni degli organi e delle cellule. Nella telefonia cellulare, per poter permettere che una stessa frequenza possa essere utilizzata da più utenti contemporaneamente, si usa la modulazione della frequenza. La frequenza portante viene interrotta periodicamente da frequenze basse. Alcune di queste frequenze coincidono o sono molto, molto vicine ad alcune frequenze biologiche importanti e provocano una sorta di interferenza tra le onde elettromagnetiche e le frequenze biologiche. Mi faccia fare un'altra domanda, professor Levis. Ci sono anche altri tipi di effetti? Certamente. Le radiazioni, soprattutto quelle a radiofrequenza, riducono la sintesi notturna di melatonina, un meccanismo che può portare ad un aumento dei radicali liberi e quindi ad una maggiore propensione della trasformazione tumorale. Quindi, professor Lewis, è ormai assodato che l'elettrosensibilità abbia una base reale. Ma per la scienza seria, quella non influenzata dai soldi dei gestori, si tratta ormai di una certezza. È stato dimostrato che le radiazioni elettromagnetiche possono influenzare anche la capacità di dormire, di sognare, la memoria, la capacità di risolvere dei problemi, ma non solo. A questo punto, concentriamoci su quello che è il principio di precauzione, da cui parte tutto il nostro lavoro sull'inquinamento elettromagnetico. Si incominciò a parlare di principio di precauzione già nel 1992 con il protocollo di Rio de Janeiro. Per proteggere l'ambiente, gli stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. Qualora esista il rischio di danni gravi e irreparabili, la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci, anche non a costo zero, per la prevenzione del degrado ambientale. Si continuò a parlare di principio di precauzione poi nel Trattato di Maastricht del 1994. La politica della comunità in materia ambientale mira ad un elevato grado di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della comunità. Essa è fondata appunto sul principio di precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio che chi inquina paga. Il principio di precauzione trova applicazione nei diversi settori del progresso scientifico e tecnologico ogni qualvolta la scienza, per il livello di conoscenza raggiunto o per l'inesistenza e o l'insufficienza di osservazioni e studi adeguati, non è in grado di assicurare che l'innovazione tecnologica sia destinata ad evolvere in direzioni totalmente sicure ed innocue per la salute umana. Il principio di precauzione si coordina con l'articolo 32 della Costituzione, ovvero la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Questo principio porta a rovesciare l'ottica di approccio, inducendo a chiedersi non soltanto se i campi elettromagnetici sono nocivi, bensì se sono innocui. Parliamo un po' del caso più eclatante in Italia, il caso di Radio Vaticana. È noto che, come non è tutto oro ciò che luccica, non è neanche tutto innocuo ciò che non si vede. Il caso di Radio Vaticana è considerato la madre di tutte le battaglie contro l'elettrosmog. Siamo poco fuori Roma, in un arco di chilometri che racchiude Cesano, Lolgiata, La Storta, Santa Maria di Galeria, Osteria Nuova ed i comuni di Anguillara, Campagnano e Formello. Tutti accomunati dalla presenza enorme, ingombrante, degli impianti di Radio Vaticana. 425 ettari di territorio con 58 tralicci, alti 100 metri che irradiano trasmissioni ad elevatissima potenza tali da poter raggiungere ogni angolo della Terra senza l'ausilio di ponti radio. Alla fine degli anni 90 gli abitanti della zona cominciavano a sintonizzarsi con la radio della Santa Sede. Anzi, per la verità era la Santa Sede che si sintonizzava con loro, attraverso i più svariati conduttori di casa. Termosifoni, lampadari, citofoni, trasmettevano continuamente la Santa Messa, il Rosario, i programmi di Radio Maria. Ma le interferenze riguardavano anche protesi acustiche, cancelli automatici, strumentazioni elettroniche di automobili e treni che passavano lì vicino. Il Ministero dell'Ambiente aveva appena stilato un elenco di siti non a norma, coi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti nel 1998, e l'impianto di Radio Vaticana ne faceva parte. L'impianto superava di gran lunga il limite di 6 volt per metro previsto dall'articolo 4, che dispone che tale valore non vada superato nei luoghi dove si permane per più di 4 ore al giorno, quindi abitazioni, uffici, scuole, luoghi di lavoro. Dal punto di vista sanitario, la situazione si faceva preoccupante nel momento in cui una indagine svolta dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio e poi pubblicata sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione rivelava che tra il 1987 ed il 1995 era stato riscontrato un eccesso di mortalità per leucemia nella popolazione adulta residente fino a 4 km dagli impianti. In quella zona la percentuale di morti per tumori risultava di gran lunga superiore a quella del resto del Lazio e di tutta Italia. Una nuova indagine epidemiologica svolta a marzo 2001 rivelava che a Cesano il rischio di contrarre la leucemia era notevolmente più alto rispetto a quello di tutta Roma, evidenziando un eccesso di leucemie infantili fino ad una distanza di circa 6 km dalla stazione radio. Diceva a proposito il dottor Roberto Bertollini, capo della divisione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un'intervista al Corriere della Sera, sempre a marzo 2001. Nel caso di Radio Vaticana siamo di fronte ad una situazione estrema. Ci sono antenne che generano radiofrequenze molto elevate. C'è una comunità di persone che vive lì vicino. C'è uno studio che evidenzia un numero elevato di leucemie proprio nei pressi delle antenne. Ci sono elementi sufficienti per dire che la vicenda debba essere presa seriamente in considerazione. Vicenda che in pochi anni si sposta velocemente da un ambito medico ad uno giuridico, dal piano parlamentare a quello diplomatico. I protagonisti infatti sono due stati, Italia e Città del Vaticano. Si susseguono inchieste, interrogazioni parlamentari, petizioni da parte dei cittadini, querele, rilevamenti, contestazioni e processi, una quantità enorme di dichiarazioni e contraddizioni, e poi perizie e controversie legate a interessi giganteschi. Esperti stimati che prima dichiarano che appare prioritaria la riduzione dei livelli di emissione e successivamente negano il pericolo prodotto dalle antenne di Radio Vaticana. E ci sono personaggi influenti a livello mediatico che stranamente contrastano i dati fino a quel momento rilevati. Tra questi figura il famoso oncologo Umberto Veronesi, ex ministro della Sanità. Ma alla base di tutto c'è una informazione parziale e inesatta da parte di giornali, TV, media. La domanda è: in tutti questi anni, che fine ha fatto il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana? Nel 2005, 6 anni fa, il cardinale Tucci e padre Borgomeo, responsabili dell'ente di Radio Vaticana, venivano condannati in primo grado a 10 giorni di detenzione e al risarcimento dei danni e delle spese legali delle parti civili in causa. Il reato ipotizzato è getto pericoloso di cose. Gli imputati naturalmente ricorrevano alla Corte d'Appello che nel 2007, quindi 2 anni dopo, annullava la sentenza per un cavillo giudiziario. L'emissione oltre i limiti di onde elettromagnetiche non rientrava nel reato di getto pericoloso di cose. Il tutto quindi solo per una carenza in materia della legislazione italiana che non prevedeva imputazioni specifiche a riguardo. La vicenda però non finiva qui e la Procura di Roma con Gianfranco Amendola, coadiuvata dalle associazioni ambientaliste, faceva ricorso in Cassazione. Ma intanto, intorno alla sede di Santa Maria di Galeria, testimoniavano allarmati i rappresentanti del coordinamento dei comitati di Roma Nord, le costruzioni nei pressi dell'impianto di Radio Vaticana continuano da sempre e senza interruzione. Eppure, nel 2001 la commissione bilaterale dello Stato italiano e della Santa Sede aveva stilato un accordo, appare sul sito della stessa emittente radiofonica, con cui le due parti si impegnavano ad assicurare il mantenimento dello status quo urbanistico dell'area immediatamente adiacente al comprensorio di Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, evitando l'avanzamento ulteriore di costruzioni abitative e la sopraelevazione di quelle esistenti. Ma peccato che il nuovo piano regolatore, approvato in fretta e furia nel 2007 dalla giunta comunale prima delle dimissioni del sindaco Veltroni, prevedeva nella fascia interna ai 4 km di distanza dall'impianto l'insediamento di 15.500 nuovi abitanti. 15.500 persone, bambini, donne, uomini, potevano tranquillamente andare ad abitare proprio accanto alle antenne. E meno male che da sempre la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità invita tutti gli stati e le istituzioni a tenere in considerazione la necessità di applicare rigorosamente il principio di precauzione. Allora la domanda è: in tutti questi anni, che fine ha fatto il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana? E finalmente, il 14 maggio 2008, 3 anni fa, la Cassazione accettava il ricorso, definendo il reato contestato, ovvero che la diffusione di onde elettromagnetiche oltre i limiti consentiti è configurabile con l'accusa di getto pericoloso di cose, annullando quindi la sentenza precedente che scagionava i due imputati, i due responsabili di Radio Vaticana, che perciò ora bisognava nuovamente processare. Il processo di appello si svolgeva nel 2009, 2 anni fa, concludendosi il 14 ottobre con la dichiarazione della Seconda Corte di Appello di Roma, che nelle motivazioni sottolineava: appare evidente che sono stati superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti da tutte le leggi speciali in materia. I giudici sostenevano però di non dover procedere nei confronti del cardinale Roberto Tucci per sopravvenuta prescrizione e di non poter procedere per morte del reo nei confronti di padre Pasquale Borgomeo. Comunque era stato affermato un principio molto importante, poiché, leggiamo insieme, da questo momento qualsiasi emissione di onde elettromagnetiche, qualora produca disturbi di qualunque tipo alla popolazione, potrà essere denunciata anche penalmente come getto pericoloso di cose. La sentenza apriva così la strada a possibili richieste milionarie di risarcimento. Ed eccoci a oggi. Nell'estate 2010, poco meno di un anno fa, vengono pubblicati i risultati di una perizia commissionata dal giudice per le indagini preliminari Zaira Secchi nell'ambito dell'inchiesta per le morti da elettrosmog avvenute tra la fine degli anni 80 e il 2003. In questa perizia, ben 300 pagine, si parla di rischi importanti di morti per tumori emolinfopoietici, per le persone esposte tra i 5 e i 9 chilometri dall'emittente per almeno 10 anni. In particolare si sostiene che vi sia stata una associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale alle strutture di Radio Vaticana ed eccesso di rischio di malattia per leucemia e linfomi nei bambini. E viene aggiunto inoltre che in modo limitato e additivo hanno plausibilmente contribuito all'incremento di quel rischio anche le strutture di Maritele, i vicini impianti della Marina Militare. Questo è il commento di padre Federico Lombardi, direttore di Radio Vaticana. Radio Vaticana prende con stupore i risultati della perizia e presenterà al più presto le proprie considerazioni e le controdeduzioni dei propri consulenti tecnici, il professor Umberto Veronesi e la dottoressa Susanna Lagorio. Inoltre, è bene ricordare che secondo la letteratura scientifica internazionale non è stata mai dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità come quello ipotizzato, a quanto sembra, dalle conclusioni della perizia, che non vanno quindi ritenute assodate. Occorre ribadire ancora una volta che Radio Vaticana ha sempre osservato le indicazioni internazionali sulle emissioni elettromagnetiche e dal 2001, in seguito ad accordo con le competenti autorità italiane, ha osservato i più restrittivi limiti stabiliti dalla sopravvenuta normativa italiana in materia, in modo tale da rispondere attentamente, come dovuto, ad ogni eventuale preoccupazione della popolazione circostante. Insomma, la battaglia continua. Ma la domanda è: in tutti questi anni, dal 1987 ad oggi, 2011, quasi 25 anni di leucemie, tumori, a Cesano, l'Olgiata, la Storta, Santa Maria di Galeria, Osteria Nuova, Anguillara, Campagnano, Formello. Ecco, in tutti questi anni, che fine ha fatto il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana? Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Elettro TG, con l'edizione di Elettro TG di mezzogiorno, dell'una, delle due, notiziario sempre aggiornato sugli eventi legati all'inquinamento elettromagnetico. Allora, iniziamo subito con gli esteri. Francia. Prosegue a Lione la campagna a cura del Ministero della Salute per evitare di far usare il cellulare ai bambini sotto i 12 anni. La campagna, che ha avuto inizio già qualche anno fa, è la prima del genere nel mondo e mette in guardia i genitori contro i rischi che corrono dotando i propri figli di un telefono cellulare. La domanda è: quando la stessa cosa potrà avvenire in Italia? Londra. In continuo aumento il cosiddetto fenomeno dell'SMS walking. Nella capitale inglese ogni anno circa 68.000 persone finiscono in ospedale per fratture, contusioni e traumi dovuti agli urti subiti camminando distrattamente mentre sono intenti ad inviare o leggere un messaggio con il proprio cellulare. Una possibile soluzione viene da una società londinese che ha pensato di foderare pali della luce, cassonetti e panchine in varie zone della città. Ginevra. Allergico al telefono? Al cellulare? Alla televisione e al forno a microonde? No, no, non è una rivolta sociale di chi rifiuta la modernità e l'essere reperibili sempre a qualunque costo. Si tratta di una vera e propria malattia. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stima in una cifra compresa tra l'1% ed il 3% della popolazione mondiale le persone affette da elettrosensibilità. Ma rimanete con noi, dopo il TG ci sarà un approfondimento dedicato proprio al tema. Notizie dall'interno. Roma. Il presidente della provincia, Nicola Zingaretti, annuncia con orgoglio l'arrivo di un punto wifi in una panetteria di Roma. Sarà quindi possibile, molto interessante, navigare su internet mentre si acquista una ciriola o una baguette. Lo stesso presidente dichiara con entusiasmo che Roma ha superato Londra installando un numero maggiore di hotspot nei luoghi pubblici e concludendo poi sottolinea come la provincia di Roma ha investito ben 2,5 milioni per sponsorizzare il progetto Wi-Fi, installando ripetitori dentro le università, i centri anziani, gli ospedali e le scuole. Ed eccoci all'inchiesta. Continua il nostro appuntamento con le proteste in tutta Italia. Eccoci qua. Qui siamo a Roma, in una zona portuense, Roma Sud, dove si manifesta per non far mettere un'antenna Vodafone sopra un albergo che si trova proprio al centro di una collina molto abitata. Eccola qui la prima slide. Eccola qua. Potete vedere Vodafone tutto intorno a te. Ecco, tutto intorno a te, tutte le radiazioni tutte intorno a te, eccole qua. Ecco un'altra immagine, un'altra protesta. Eccoci qua. Con Vodafone ci sarà più campo santo per tutti. E ora sentiamo l'avventura capitata a un nostro amico siciliano. Su cosi dell'Aucio Munno! Ricevetti una fortunata eredità che mi permetteva di vivere tranquillamente senza pagare casa. Presi possesso dell'immobile trasferendomi nel centro storico di Catania, esattamente in via Umberto numero 83, dove è ubicato uno straordinario edificio risalente ai primi del Novecento, una di quelle costruzioni griffate da Tommaso Malerba, insigne ed eclettico ingegnere etneo passato a miglior vita nel 1978, dove chiunque di noi vorrebbe eleggere domicilio per poi sbirciare la città dagli anfratti delle mura merlate da pomposi balconi in stile gotico moresco di Palazzo Mazzone, un bijou di Liberty, il più fotografato del capoluogo. All'ultimo piano, proprio sotto la terrazza, sistemai mamma e papà novantenni, mentre al primo piano misi il sottoscritto in un appartamento che faceva pure da studio. Insomma, per qualche mese tutto sembrava filare liscio. Ma un giorno qualcuno suona al campanello e chiede le chiavi della terrazza. E a che ci servono codesti rapipotti? Domando io. A faricciarsene sulla terrazza delle persone, risponde lui. E parlando vengo a sapere che queste persone non erano altro che tecnici che di lì a breve avrebbero dovuto installare una bella antenna per telefonia mobile, non di quelle piccole, ma di quelle grandi, enormi, insomma una specie di camion con rimorchio sopra la testa. Risposi di no. che non ero d'accordo e che comunque nessuno si è degnato di sentire il mio parere. Aggiunse che sotto l'abbaino abitano due poveri vecchiette, che comunque non è possibile installare alcunché perché il terrazzo e le relative pertinenze sono nel mio esclusivo possesso. Continuai col chiarire che il palazzo è antico ed è un bene culturale che non si tocca. Terminai la discussione con l'evidenziare che sarebbe bene non tornare più sull'argomento ed educatamente salutai. Ma che... io non sapevo quello che avevo fatto. Non immaginavo neppure quello che mi sarebbe accaduto di lì a Napareion. E infatti due giorni dopo, nottetempo, sento dei rumori. Stump, stump, stump. Ta ta ta ta ta. Ting, ting, ting. Minchia. I ladri? E che fanno tutto sto baccano? Passano minuti, passano due, tre ore. All'alba i rumori si fanno più forti. Stump, stump, stump. Ting, ting, ting. Ta ta ta ta. E decisi di andare a vedere cosa caspita succedeva. E che cosa scoprì? In una notte avevano blindato la terrazza. Un enorme cancello di ferro mi impediva di accedere in già a mia casa. Una cosa inaudita, folle, una violenza da talebani. E allora che feci? Chiamai subito il mio avvocato per intentare causa con giusti cosi fitusi. Un giudice del tribunale di Catania, visti gli atti, ordinò al gestore telefonico di rimuovere il cancello di ferro e di evitare di fare qualsiasi lavoro passando sopra la testa dei due vecchietti di mamma e papà, che nel frattempo cominciavano ad avere, come dire, una certa perplessità, ecco, riguardo a questo palazzo dalle sane frequentazioni notturne. Passano dei giorni e mentre tutto sembrava tornare alla normalità, qualcuno si accorge di inconsueti movimenti sempre coscuro nella centralissima via Umberto. Camion che vanno, camion che vengono, avvocati, tecnici e operai che scrutano i tetti e un gran rimestio di attrezzi, gru e macchine. Pensai, scoppiavo a guerra, o peggio, pessio Catania in casa, o forse più semplicemente un'esercitazione della protezione civile. Ma che? Trattavasi niente po' di meno che delle grandi manovre di una cervellotica regia che intendeva attaccare il palazzo dall'alto. Sì, signori, avete compreso bene, dall'alto. Un'operazione militare in piena regola che culminò il 14 gennaio 2005 all'alba di una gran brutta giornata. Venne bloccata interamente la circolazione della zona mentre dal cielo di via Umberto si vide calare sull'abbaino di Palazzo Mazzone una prima squadra d'assalto che spianava la posa di una gigantesca centrale UMTS del peso di chissà quante migliaia di chili. Il palazzo sussulta, pare che si scucchia e casta cascando, rumori sinistri dappertutto, quasi un settimo grado della scala Mercalli. Tutti i vicini di casa accorrono nonostante il freddo e la luce fioca delle prime ore del mattino. Un giovane registra un filmato mentre una donna tenta una inutile resistenza passiva. Arriva la forza pubblica, ma puttana di Eva, impone la propria autorità alla parte lesa che sbandiera ai 4:20 la sentenza di un giudice e grida tutta la sua rabbia: andate via, andate via, ma come vi siete permessi di violare il nostro domicilio? Avete danneggiato le mura merlate e distrutto una terrazza. Non avete osservato il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Avete installato clandestinamente un obbrobrio d'acciaio sopra una superficie vecchia di 100 anni. Avete deturpato un immobile storico con il rischio di mandare al creatore due poveri vecchietti e tante altre brave persone. Ma chi vi ha autorizzato a bloccare il traffico per l'ennesima volta? Chi vi ha firmato il nulla osta per fare tutto questo? Cufu, cufu. Adesso l'assurda vicenda è finita sulla scrivania di un sostituto procuratore che avvierà le indagini di rito, mentre tutti noi aspettiamo con ansia la prossima mossa del potentissimo gestore telefonico. Sua Altezza l'azienda, dicono in giro, non si fermerà nemmeno davanti ai carabinieri, come è stato. Noi ci chiediamo come può accadere una cosa simile. Le responsabilità di quanto accaduto su chi ricadranno? È vero o no che il comune di Catania, ufficio viabilità, avrebbe rilasciato le autorizzazioni per bloccare il traffico in via Umberto? È vero o no che la sovrintendenza etnea avrebbe rilasciato il nulla osta all'installazione della centrale ripetitrice, purché mascherata da canna fumaria? È vero o no che nessuno, e dico nessuno, ha mosso un dito per difendere le famiglie, oggetto della ciacotanza e della intimidazione che tanto ci ricordano certe cose di Cosa Nostra? Spero proprio che simili, rivoltanti episodi di gratuita aggressione non abbiano più a ripetersi e che giustizia trionfi su cosi ripazzero manicomio. Ma insomma, è vero o no che su cose dell'altro mondo? Che cosa è l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici? L'elettromagneto-ipersensibilità è una delle manifestazioni biologiche sanitarie dei campi elettromagnetici. Nella maggior parte di noi i sintomi sono molto simili, anche se di diverso grado. Sono caratterizzati più spesso da cefalea, insonnia, sonno non ristoratore, debolezza e facile esauribilità fisica, riduzione della memoria e della concentrazione, dolori localizzati o diffusi sia brucianti che lancinanti, disturbi dell'equilibrio uditivi, visivi, alterazioni dell'umore e del carattere, sbalzi di pressione, palpitazioni cardiache. Le comuni terapie farmacologiche sono pressoché inefficaci. Al momento l'unica pratica efficace è evitare i campi elettromagnetici. La sintomatologia si verifica a livelli di campi elettromagnetici comunemente tollerati dalla popolazione generale e nei limiti di legge. Regredisce con l'allontanamento da essi, ma al ripetersi delle esposizioni può diventare continua, compromettendo talmente l'efficienza e lo stato di benessere fisico da indurre un sovvertimento della vita familiare, sociale e lavorativa. Alcuni di noi hanno dovuto cambiare casa o modificarla per renderla vivibile. Cambiare lavoro, evitare ambienti e mezzi pubblici, smettere di guidare l'automobile, di usare il computer o qualsiasi altro strumento elettrico. Allo stato attuale gli studi scientifici non hanno ancora convenuto un nome per questi sintomi. A livello internazionale si parla di ipersensibilità ai campi elettromagnetici, comunemente invece si abbrevia in elettrosensibilità. Nel mondo l'elettrosensibilità ancora oggi non è considerata una malattia a tutti gli effetti, tranne in Svezia, spesso all'avanguardia nella tutela di molti diritti civili. Questo grazie al dottor Olle Johansson, vero e proprio pioniere degli studi sull'elettrosensibilità, che da oltre 20 anni studia la materia diventando nel corso del tempo una sorta di portavoce di chi nel mondo si dichiara elettrosensibile. Secondo Johansson, chi si dichiara tale soffre di una vera e propria allergia. Il nostro sistema immunitario, spiega il professore svedese, si è sviluppato in sintonia con nemici riconosciuti e non è pronto a fronteggiare gli allergeni elettromagnetici contenuti in segnali TV e onde radio. Ed ora anche Canada, USA, Regno Unito e Svizzera stanno valutando l'ipotesi di riconoscere l'elettrosensibilità come malattia. Non così in Italia, invece, dove la questione è al centro di un forte dibattito. Protagonisti della diatriba sono, da una parte, l'Associazione Italiana Elettrosensibili e quella per le malattie da intossicazione cronica e o ambientale, che lottano per il riconoscimento della patologia. Dall'altra invece ci sono le istituzioni e la Società Italiana di Elettromagnetismo, che appoggia la posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui l'elettrosensibilità sarebbe solo una suggestione psicologica. Mancano dati di laboratorio precisi, dice Guglielmo Dinzeo, ordinario di interazione bioelettromagnetica presso la Sapienza di Roma. Risponde invece Angelo Levis, ex ordinario di mutagenesi ambientale a Padova e fondatore di APLE, Associazione per la Prevenzione e la Lotta dell'Elettrosmog, secondo cui il mancato riconoscimento della malattia è dovuto semplicemente alla commistione di chi fa ricerca, chi fa servizi di telefonia mobile e la realtà istituzionale internazionale. Questa situazione, afferma concludendo Lewis, provocherà nei prossimi anni gli stessi danni che il tabacco ha fatto al Novecento, e la sua effettività è dimostrata da studi epidemiologici, geografici e dal lavoro di Johansson, che ha aperto uno spiraglio di luce per tutti i malati. Ah, ma eccoci ancora qua con Elettro TG, un ultimo aggiornamento, interrompiamo per comunicarvi una buonissima notizia appena apparsa da pochi giorni proprio sul sito del coordinamento dei comitati di Roma Nord, riguardante il lungo e doloroso caso di Radio Vaticana di cui abbiamo parlato proprio pochi minuti fa. Leggo dal sito coordinamento dei comitati di Roma Nord del 24 febbraio, quindi pochi giorni fa, i cittadini di Roma Nord hanno vinto. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l'appello della Radio Vaticana contro la sentenza di condanna per getto pericoloso di cose del 2009. La Radio Vaticana ha così perso per la sesta volta nelle aule di giustizia e per la quarta volta in Cassazione, quindi siamo felici per questa ulteriore grande vittoria. Ah, per la cronaca, poi, io e i miei amici siamo riusciti ad evitare di fare installare la famosa antenna. Però, senti che è successo. Dopo è arrivata una denuncia. Sì, i miei amici sono stati denunciati. Io no, io gli portavo solo il caffè. Io non sono stato denunciato, ma 19 di loro, quelli che giorno e notte si davano il cambio sotto questo gazebo, sono stati denunciati dall'amministratore del palazzo di fronte, indispettito perché non poteva prendere i soldi da parte del gestore. L'amministratore, non potendo certo dire nulla riguardo alla motivazione, ha sostenuto che il presidio organizzato in quei mesi aveva ostacolato il traffico della strada. Una strada ad alta frequentazione, Ma per questa denuncia i miei amici stanno subendo un processo. Persone che protestavano per un loro diritto, la salute, per un diritto dei loro figli, dei bambini che frequentano l'asilo nido e le scuole qui vicino. Ebbene, tutti i miei amici stanno subendo un processo. Lascio immaginare le spese, avvocati, tensioni, incazzature. Questo è Elettrosmog, cronaca di un presidio, storia di mille antenne. Spettacolo che tratta di un nemico invisibile, l'inquinamento elettromagnetico, e lo fa affrontando i diversi e complessi aspetti che si muovono intorno a questo tema. Da una parte l'uomo e il suo diritto alla salute, dall'altra l'uomo e la sua prepotenza, la sua ignoranza. In ogni caso l'uomo. Questo spettacolo viene presentato a teatro, ma anche in convegni e dibattiti nelle scuole. Perché l'elettrosmog non si vede, non si sente, non ha odore né sapore, non ha identità, ma può portare a malattie come leucemie, tumori. E questo è importante saperlo.